Pubblicata sulla rivista contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Luca Rami dal titolo Il vento d'Oriente. Il vento si alza, mi domando se vivrò ancora dopo di te. Forse era scritto nel libro della vita, forse un regalo, una forza che mi attrae, imprevedibile, incorruttibile, misteriosa e sottile. Brucia tutto quello che ostacola l'amore, è come un vento caldo che viene dall'Oriente e che soffia dove vuole, mi abbandona a questo vento caldo, mi trasporta in un attimo di eternità,